A tempo di sport con Carlo Genta. Ogni angolo è un rifiuto sistemato, neanche tanto squilibrato. Buon pomeriggio, buona estate a tutti. Abbiamo scelto un bel giorno per cominciare questo viaggio estivo insieme. Mercato sì, ma delle partite truccate. Questo è il momento nel quale storicamente, ne abbiamo ampi esempi in passato, il calcio rifiuta per strada. Il calcio butta per strada, rovescia per strada tutta la sua spazzatura. E anche Massimo Callegari ha scelto un bel pomeriggio per venirci a trovare. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, i numeri sono 16 arrestati, di cui 7 in carcere e 8 ai domiciliari, 44 indagati, tra cui calciatori o ex calciatori più o meno famosi, su cui spicca il nome di Beppe Signori, che pare essere, stando a quanto dicono gli inquirenti, un personaggio chiave in questa inchiesta sul calcio truccato, che porta a parlare gli inquirenti stessi, e tra poco sentiamo anche estratti della conferenza stampa della GIP di Cremona, Salvini parla di 18 partite falsate. Giocatori coinvolti, come detto, Signori, arresti domiciliari, Bettarini che, lo ricordiamo, già nel 2004 ebbe con la maglia da Sampdoria i suoi bei problemi di questo tipo, con 5 mesi di squalifica. Tra gli arrestati c'è Mauro Bressan, ex Fiorentina, indagato è la bandiera dell'Atalanta, e l'Atalanta risulta toccata da vicino da questa inchiesta. Cristiano Doni dunque tra gli indagati, l'ex capitano del Bari Antonio Bellavista, ci sono gli Ascolani, Micolucci e Sommese, c'è Gianfranco Parlato, c'è un altro calciatore di Lega Pro che pare essere un personaggio chiave di questo Marco Paoloni, ci sono storie di sostanze ipnotiche, di tranquillanti versati nelle bevande che i giocatori prendono prima della partita, nell'intervallo della partita. C'è questa torta, ma abbastanza grossa a quanto pare, che rischia, ed è questo uno degli aspetti su cui ci sarà da lavorare in estate, rischia di 18 partite falsate che rischiano di far saltare il banco in Serie B come in Lega Pro. In questo elenco è inserita anche Inter-Lecce del 20 di marzo. Questo elenco delle 18 partite. Poi che altro dire? Molto in realtà, compreso il fatto che su un paio di queste partite che oggi sono inserite in questo elenco ufficialmente e dagli inquirenti, su un paio di queste partite qualche sospetto c'era già a marzo, perché su Atalanta Piacenza, così come su Padova Atalanta, ci fu un'inchiesta della Federcalcio per puntate anomale su queste gare, poi inchiesta che chissà dove si è arenato, dove è finita. Vale la pena di ricordare però che giustizia sportiva e magistratura ordinaria dispongono di strumenti molto diversi per svolgere le loro ben differenti indagini, comprese intercettazioni, che ovviamente in questo caso dalla magistratura ordinaria sono state effettuate e verranno utilizzate. Massimo, cosa ne pensi di tutto questo? Ma, la tua prima sensazione? La prima personalissima è legata a Beppe Signori, perché ho lavorato con lui quest'anno, ha lavorato con noi nelle serate, nei pomeriggi di Serie A, e devo dire che sono totalmente stupito da questo punto di vista personale. Spero che le accuse non siano vere e verificate. E l'altra sensazione non è di totale stupore, soprattutto per le partite della Lega Pro, nel senso che sono campionati che da anni vivono nell'ambito del professionismo sul piano formale, ma non sono più campionati professionistici del tutto sul piano sostanziale, per la gestione delle società, per le difficoltà che hanno moltissimi club, e quindi poi questo porta o può portare a generare dei meccanismi differenti, al di là del fatto che poi magari qualcuno, indipendentemente dalle difficoltà economiche che può avere nel corso di una stagione, sì, per sue attitudini o per sue scelte va a cercarsi questi guai, insomma. 800 24 00 24 per far sentire anche oggi la vostra voce, messaggi 349 238 6666. Vorrei farvi sentire invece cosa ha detto il GIP di Cremona Salvini, che ha parlato in conferenza stampa facendo un quadro piuttosto preciso di tutto quanto. Sentiamo un primo estratto. Le partite che sono sub iudice sono 18. In realtà si parla di un'altra quindicina di partite che però non emergono neanche tanto chiaramente, nel senso che non basta che la partita sia nominata durante le intercettazioni per dire che sia stata truccata. Poi a volte erano ipotesi, idee, programmi, eccetera. Comunque questi signori, ci sono delle telefonate che evidenziano addirittura 5 interventi gestiti contemporaneamente, 5 partite truccate gestite contemporaneamente. Il quadro, dunque, ci sono circa 50.000 telefonate intercettate, quindi un po' alla volta è emerso questo quadro di corruzione. Le persone interessate sono del mondo del calcio prevalentemente, ci sono degli ex giocatori, ci sono delle persone che giocano attualmente al calcio, ci sono giocatori dell'Ascoli, ci sono giocatori addirittura, poi il Paoloni ha questa strana figura di posizione centrale e contemporaneamente soggetto che scommetteva. Comunque ci sono anche insospettabili, anche imprenditori che avevano il lobby del gioco. Quindi abbiamo detto partite Serie B della Serie A, ci saranno complicati problemi di rapporti con la giustizia sportiva, immagino. Ci sono persone tra gli imputati, persone che hanno avuto recentemente degli altri problemi proprio con la giustizia sportiva. Questo era Salvini, il GIP. Intanto dicono le agenzie che questa indagine, denominata Ultima Scommessa, è nata su segnalazione della Cremonese dopo una partita Cremonese-Paganese del 14 novembre. Questa è una notizia riassuntiva che viene battuta adesso. Abbiamo un unico problema, che è questo che hanno detto un assessore, se no niente mai. Veramente siete nel mio cuore, nel nostro cuore, siete stati straordinari. Anche noi! Atalanta in Serie A, poi lo vediamo. Questo era presidente Percassi prima dell'inizio del campionato, nel corso delle feste. In Serie A lo vediamo, anche perché per l'Atalanta, come per tutte le altre, risulta a questo punto tutto sub iudice. Non si sa bene che cosa possa succedere sull'Atalanta e su Cristiano Doni. Massimo, hai parlato prima di signori per questa conoscenza personale. Cristiano Doni è il re di Bergamo, sì, no? Il re, sì, della tifoseria atalantina. Cioè, francamente, leggere queste cose di questi presunti coinvolgimenti di un giocatore per una città così importante è quanto di peggio, è quanto di più impensabile, impossibile, viene da dire. Sì, anche perché insomma noi che siamo qui e viviamo da osservatori lo spettacolo del calcio e il mondo del calcio, abbiamo sempre, credo, ammirazione per personaggi che riescono a fare storie di club più o meno importanti, e ci sembra un po' difficile che debbano cercare poi altro, no? Oltre alle soddisfazioni che hanno dal campo. Devo anche dire una cosa che è importante, cioè le persone coinvolte poi dovranno dimostrare di non essere colpevoli, come indicano i giudici, i PM, eccetera. Però è anche vero che se, come sembra, alcune bevande sono state adulterate, sì, da giocatori per non far rendere i compagni, questo significa che ci sono anche dei giocatori, dei calciatori che non aderivano o non aderiscono, sì, sì, a questo. Quindi non è che tutti i calciatori poi debbano essere considerati solo perché giocano in Serie B, in Lega Pro, o vivono in realtà non facili dal punto di vista economico. Certo, ma abbiamo altre dichiarazioni di Salvini che spiega un po' come, grosso modo, come si articolava questo sistema. Diciamo che le partite hanno tutte più o meno lo stesso schema, cioè si cerca, questa è una specie di industria, le cose funzionano così. Innanzitutto non è Toto Nero, qui non sono scommesse clandestine, sono scommesse normali, con tutti, ci sono molte scommesse per esempio sui mercati, sui siti asiatici per esempio, perché che cosa succede? Che quando si scommette troppo in maniera strana su una partita e non si capisce perché ci siano tante scommesse, le scommesse vengono sospese, quindi molto spesso queste persone scommettevano fuori dall'Italia. Perché ho parlato di un livello industriale? Perché questi signori dicono: proviamo, noi scommettiamo sulla partita X perché riteniamo che pagando due o tre giocatori si riesca a ottenere quel risultato. Se poi quel risultato non si ottiene, pazienza. L'importante è che se noi giochiamo, facciamo questo scherzo 8 volte o 7 volte va bene, 2 o 3 volte va male, pazienza, però recuperiamo con le altre volte. Questo è il criterio. Quindi ci sono anche delle situazioni in cui sono coinvolte proprio le dirigenze delle squadre. Non vi dico però quali partite, perché sarebbe esagerato parlare di questo. Questo era di nuovo il GIP di Cremona. Salvini, c'è chi insiste su Interlecce, non è una partita di Serie B ma di Serie A, come è mai stata inserita in questo elenco? La risposta io non la so, leggo soltanto l'elenco. Paolo da Crema sottolinea, come è stato specificato, che le due squadre non sono coinvolte, ma c'è ancora molto fumo, dobbiamo aspettare che la polvere si depositi per capirne qualcosa. Intanto mi sembra particolarmente importante sentire l'opinione di un collega che ha lavorato in maniera enorme sullo scandalo 2006, su Calciopoli e su molte altre magagne del mondo dello sport. Marco Mensurati di Repubblica. Ciao Marco. Ciao a tutti, buongiorno. È importante in questo momento in cui la polvere è ancora alta capire qual è la tua sensazione? Ma guarda, la mia sensazione è che siamo alle solite. Ci troviamo di fronte a un mondo dello sport incapace di arginare i propri fenomeni, che è schiacciato tra i criminali che ha al suo interno e una giustizia federale assolutamente inefficiente, perché se basta che facciate un pochino di rassegna stampa per vedere quante volte durante l'anno più di un giornale, non per citare Repubblica, ma la Gazzetta dello Sport per dirne una, ha dato a procuratore Palazzi e ai suoi uomini tutti gli elementi per arrivare laddove, con le intercettazioni telefoniche, svolgendo il consueto ruolo di supplenza, la magistratura ordinaria arriva oggi. Questo a me è un po' la prima cosa che mi viene in mente a livello di commento. Se invece poi volete sapere cose a livello di notizie, siamo a disposizione. Sì, no, mi interessava la sensazione e il commento. A livello di notizie mi sembra ancora molto presto, Marco, anche per capire quali possono essere i destini delle squadre coinvolte. Ma guarda, per quella lì è importante, perché come una volta tanto possiamo parlare di giustizia d'orologeria, però in senso positivo, nel senso che proprio ci è stato spiegato che le indagini sono state chiuse in fretta, non appena tutti gli elementi erano arrivati a destinazione, proprio per permettere alla giustizia sportiva almeno adesso di intervenire prima della stesura delle classificazioni ufficiali della stagione in corso. Quindi quello che poi può succedere, quello che poi può essere determinato da Palazzi, ovviamente, che è il procuratore federale, lo ricordiamo, e si vedrà nei prossimi giorni. Io oggi ho appena finito la lettura di queste affascinanti 600 pagine di roba, e vi posso assicurare che di lavoro ce n'è molto. Sì, ma quali sono le dimensioni di questa storia? Sono ladri di galline, benché famosi, è un'organizzazione molto estesa. A sensazione, quali sono le dimensioni di questa vicenda? Basta considerare come è strutturata la questione. La questione si struttura, l'associazione a delinquere delineata dai magistrati si struttura come una piccola federazione di associazioni a delinquere, che ha ramificazioni a Chiasso, Bologna, Milano, Bari. Basta vedere quali sono le squadre di calcio presenti in queste squadre per capire, in questa città, per capire bene quali sono le categorie del campionato coinvolte. Ora, agli atti ci sono solamente molte partite di Serie B e una partita di Serie A, però la mia netta impressione, considerando Bologna, Lecce e Milano, è che una volta fatti gli interrogatori in carcere, io personalmente mi aspetto molto dall'interrogatorio di Marco Paoloni, secondo me staremo qui a raccontare un'altra storia. Sì? Storia che può coinvolgere anche qualcuno al piano di sopra? Beh, se voi considerate la partita Inter-Lecce che viene ben descritta dalle carte, vi renderete conto che questo Marco Paoloni e il clan dei bolognesi, questi sono due i clan principali, il clan dei bolognesi, quello di cui faceva parte Beppe Signori, e il clan degli zingari, così definito, che è quello operativo a Chiasso. La vicinanza con la Svizzera dovrebbe peraltro far riflettere. Se uno guarda bene quello che è successo da questi due clan in quella circostanza, e soprattutto quale reazione scomposta ha avuto il clan dei bolognesi quando la partita non è andata come si era prestabilito, vi renderete conto che probabilmente in campo quel giorno c'era qualcuno che sapeva qualcosa. Sì. Massimo, cosa vuoi chiedere a Marco Mensurati? No, mi interesserebbe capire... secondo te, Marco, se c'è un motivo anche tecnico di struttura dell'indagine a disposizione del procuratore Palazzi per cui la giustizia sportiva arriva sempre in ritardo, come tu hai sottolineato in apertura, o se è semplicemente una questione di metodo e di attesa e di tempi che non vengono messi in atto come dovrebbero essere. Cioè, la giustizia sportiva che strumenti ha a disposizione rispetto a quella ordinaria e perché arriva sempre in ritardo, nonostante le inchieste che tu hai citato di Gomorra sulla Gazzetta, quelle che avete fatto voi su Repubblica, e tutte le partite con le quote sospese nel corso dell'anno sono state tantissime. Ma guarda, sicuramente gli strumenti in mano a un organo di giustizia endofederale sono sicuramente meno importanti e invasivi di quelli che può avere la magistratura ordinaria. Ciò non toglie che sono comunque moltissimi, specialmente dopo la riforma fatta dalla vicenda di Calciopoli. E comunque, laddove fossero insufficienti, io credo che un obbligo istituzionale del procuratore dovrebbe essere quello di gridare ad alta voce: datemi più mezzi, non dormire sonni tranquilli mentre il mondo del calcio va letteralmente a rotoli, cosa che è accaduta in quest'anno, cosa che è accaduta 2 anni fa. Ovviamente il pesce puzza dalla testa, come si dice dalle mie parti, e è evidente che da questo punto di vista un ruolo assolutamente insufficiente lo sta svolgendo chi deve vigilare sull'attività della federazione, quindi il presidente della federazione Abete e il presidente del CONI Petrucci. Non ci dimentichiamo che scandali come questo sono all'ordine del giorno nello sport italiano da almeno 5 anni. Al di là di Calciopoli 1, 2 e 3 che ci sono stati in questi anni, io vi voglio ricordare lo scandalo Lorbeck della pallacanestro. Sì. Voglio dire, qui c'è un problema che secondo me va molto oltre gli uomini, peraltro io di Palazzi ho anche personale stima. Qui il problema ha a che vedere con direttamente con l'indirizzo politico e la voglia di fare chiarezza. Un'altra cosa, siccome leggevo che il presidente della Lega Pro Macalli si costituisce parte civile per i danni d'immagine, eccetera, eccetera, ma possiamo dire anche che esiste comunque, se no, naturalmente non in maniera diretta, però a monte una situazione di campionati insostenibile per la Lega Pro, cioè sono anni che ci sono società che falliscono, il meccanismo dei ripescaggi è stato posticipato e quello della riduzione del numero di squadre della Lega Pro forse arriverà fra 2-3 anni, cioè è un problema anche questo che va risolto, perché ci sono società che non riescono poi a gestire e a dare anche ai giocatori delle condizioni, cioè, professionali valide. Devono andare a rubare per procurarsi il pane. Sì, non esageriamo. Però per buttarla giù dura è così, è possibile? Ma guarda, sicuramente esiste un problema di quest'ordine, dopodiché io non me la sentirei, anzi ritengo pericoloso anche solo immaginare un nesso di causa e effetto tra le difficoltà economiche di una società, qualunque essa sia, e la conseguenza penale di responsabilità penale di suoi dipendenti. Cioè, come se ritenessi che Repubblica, il mio giornale, mi paghi poco per il mio lavoro e andassi a fare rapine, sarebbe assolutamente inaccettabile. No, certo, non è una giustificazione. Sicuramente esiste un problema di quell'entità di cui stai parlando tu, ma è un problema separato che va affrontato in separata sede. Magari oggi si può anche costituire parte civile, a me non risulta che abbia fatto denunce penali o esternazioni alla Procura federale, quando sui giornali, ripeto, la Gazzetta dello Sport, non Repubblica, ha raccontato di partite sospese per movimenti sospetti a livello di scommesse. Marco, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, ci risentiamo presto. L'impressione, prima di fermarci un attimo, primo ascoltatore di oggi, ce ne sono molti, cercheremo di parlare con loro dopo la pausa per la borsa che ci attende. Abbiamo anche un'intervista a Leo Grosso, che è vicepresidente dell'Associazione Calciatori e presidente dell'Asso Calciatori Mondiale, si trova a Zurigo per un'altra bella storia, quella della rielezione di Blatter che avverrà oggi pomeriggio. Alessandro da Macerata, buonasera. Buonasera, senta, praticamente quello che dicevate voi, io sono uno scommettitore legale, sì, innanzitutto, tanto per essere chiari, no? E per me non è una novità. Io sono un appassionato di scommesse, ne parlavo con un mio amico poco fa, per noi non è una novità. Cioè, per noi l'anomalia di chi scommette, di chi vede gli sbalzi di quota, di chi si interessa a questo tipo di... Cioè, per noi non è una novità. L'Atalanta, l'Ascoli, cioè io sono di Macerata, seguo le vicende anche interne, ma non per carità, non accuso nessuno. Ma ci sono cose ridicole, agli occhi di tutti, e ridicole sotto gli occhi di tutti. Atalanta-Piacenza, 3-0 primo tempo, l'over del primo tempo, l'over sopra il 2,5, lo sapeva chiunque, lo sapevano tutti, erano quote crollate da 20 a 2. Cioè, com'è possibile? Vuol dire che ci sono dei movimenti di soldi importanti. Sì. Qui non ci sono noccioline, qui ci sono soldi. Per noi non è una novità. Cioè, io in cuor mio oggi ho semplicemente detto, ah, finalmente qualcuno si è accorto. Ma lei queste notizie da che parte le trova, sentendo i rumors? Sì, assolutamente. Si trovano. Uno che frequenta un'agenzia di scommesse la trova, perché quando una quota il venerdì è pagata a 2,20 e il sabato scende a 1,20, qualcosa c'è. Cioè, è semplicemente la variazione di quota che poi uno va a vedere, va a constatare e dice, ma come mai? Perché questa partita alla pari a un certo punto è data scontata? Beh, ma tanto è vero, Alessandro, tanto è vero che queste partite erano già finite a marzo sui giornali, perché appunto c'erano questi movimenti anomali e c'erano inchieste del Federcalcio. Quindi non voglio dire, no, sono cose che le sapeva lei, ma le poteva sapere anche un lettore attento delle cose del calcio. Poi sa, fino a quando non ci sono le conferenze stampa con le scritte polizia dietro e non ci sono nomi, cognomi e gente che finisce dentro, in 3-4 giorni si dimenticano, e poi arriva la polizia a ricordarci che forse valeva la pena farci un po' più attenzione. Beh, sui siti sta già uscendo di tutto, compresi contenuti di intercettazioni. Ne leggo uno a caso: 22 marzo 2011, Erodiani, Giannone e Bellavista, che ricorda l'ex capitano del Bari, che avrebbero minacciato Marco Paoloni con frasi inequivocabili come «Ti faccio vedere io che fine fai, qua veramente la gente ti viene a sparare, vengo a casa tua, i soldi a me, velocemente, i 13.000 euro, veloce, se no stasera sono a casa tua». E si tratterebbe del risarcimento di soldi persi a seguito di puntate su partite garantite dal Paoloni e poi terminate con punteggi diversi da quelli attesi. Tre chiedevano al Paoloni un assegno di 160.000 euro. Stanno uscendo adesso, quindi le leggo in tempo reale, senza nemmeno il tempo di vedere il contesto, il contorno, di rifletterci sopra. Siamo preoccupati io e Massimo Callegari, anche perché... Ne parlavamo a microfoni spenti e sulla scorta di quanto diceva l'ascoltatore prima, un conto sono le chiacchiere, un conto sono queste indagini di carta velina della Federcalcio su partite che adesso, in questo momento, questo è il momento importante, è quello in cui dalle chiacchiere si passa alle manette e agli ordini di custodia cautelare, e c'è una certa differenza. Sì, c'è differenza, perché è l'altra cosa che, di cui parlavamo che ci colpisce è che insomma le cose sui giornali erano un po' emerse, no? Però questo non ha fermato, secondo quanto dicono le indagini, l'attività di queste persone, che evidentemente hanno pensato che la situazione fosse gestibile e tutto potesse passare nel giro di 3-4 giorni, essere dimenticato e nessuno potesse poi avere così l'idea e lo spunto di indagare veramente, magari anche perché adesso io qui ho recuperato rapidamente una delle parti dell'inchiesta della Gomorra del Calcio, della Gazzetta dello Sport. C'erano già allora delle domande che si ponevano i nostri colleghi Ceniti e Galdi, perché quando ci furono delle cose sul Potenza, alcune situazioni vennero analizzate fino in fondo dalla giustizia sportiva, altre no. Cioè, la giustizia sportiva si è fermata di fronte a delle domande che erano molto legittime, quindi probabilmente i protagonisti pensavano che anche la giustizia ordinaria, anche in questi casi, si sarebbe fermata. Allora, adesso, prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24, diamo un quadro anche di dichiarazioni completo, perché c'è Dario Ricci che poco fa ha intervistato Leo Grosso, che è vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che è presidente dell'Asso Calciatori Mondiale, che si trova a Zurigo, dove sta per essere rieletto Blatter. Sentiamolo. neanche a farla apposta quando le ho risposto così frettolosamente. Stavano facendo qui, io sono a Zurigo al congresso della FIFA, stavano facendo proprio la relazione sul contrasto alle scommesse illegali. La sintesi alla fine è quello che ha detto lei, è una lotta improba, no? Qui c'è un ufficio proprio a Zurigo che segue queste cose, ma parlava un delegato asiatico, è un fenomeno, è veramente difficile da controllare. Poi ci sono queste cose che, salva la presunzione di innocenza, ovviamente ci colpiscono, perché il fatto che i calciatori siano coinvolti è un fatto gravissimo, naturalmente. A questo proposito, come ci stava raccontando, qual è lo scenario che è stato descritto in sede FIFA e quali le possibili soluzioni? In sede FIFA è stato risollecitata tutta l'attenzione possibile su questo, che è un fenomeno che preoccupa tutti da tanto tempo. La cosa che si può fare, ma temo che non sia assolutamente esaustiva ed efficace definitivamente, di monitorare questo fenomeno. Lo stanno facendo anche con dei supporti informatici, no? Con un controllo sulle partite, ma se considerate di quante partite si può parlare e di dove e come si scommette in tutto il mondo, davvero è una prova assolutamente incubo. Ecco, le chiedo ancora, al di là del fatto specifico, non crede che si sia forse andati un po' oltre anche rispetto a quello che è il contesto, no? È quello che è il rapporto tra il calciatore e il mondo delle scommesse? Faccio riferimento al via libera di sponsorizzazioni sulle maglie dei calciatori con sponsor e aziende direttamente coinvolte nel mondo delle scommesse, calciatori che diventano testimonial di queste stesse aziende o di siti affini. Ecco, non credo che sia un contesto in qualche modo già logorato e che poi favorisce poi il cadere poi in situazioni di vero e proprio reato. Ma io credo che bisogna fare un distinguo. Sicuramente qui stiamo parlando di scommesse, ora non so se giocate sulle case di scommesse legittime o su quelle clandestine, ma parliamo evidentemente di storture. Se devo dire da purista idealista dello sport, non mi piace tantissimo questa questione delle sponsorizzazioni, addirittura dei campionati, delle società, eccetera. Peraltro credo che la cosa in sé sia legittima, sia legale. La vedrei a rovescio. In questo momento ci sono degli sponsor estremamente importanti di campionati e di società che sono legati alle scommesse, quindi devo dire che il business del momento è dalla misura di quanto sia enorme il fenomeno. È davvero difficile da contrastare. Io ho parlato qua, sono a Zurigo adesso al congresso della FIFA, e è un problema all'attenzione, ma un problema di cui non si vede una soluzione a breve. Ecco, Presidente, in virtù anche del suo ruolo di vicepresidente dell'Asso Calciatori Italiana, la sua reazione più dal punto di vista emotivo a questo scandalo di oggi, il calcio italiano che ritorna a fare i conti con le scommesse. È brutto, non c'è dubbio, questa è una brutta cosa per tutto il movimento. Io intanto, per la presunzione di innocenza, mi auguro che queste cose rientrino in tutto o in parte, ma non è una bella cosa, non è un bel esempio che i giocatori danno a tutto il mondo dello sport, perché l'essenza è la competizione, il rispetto delle regole. Se andiamo fuori di lì, veramente è un problema grandissimo. Qual è stata la reazione lì a Zurigo alle notizie provenienti dall'Italia e da Cremona? Qui siamo in tempi a discutere di problemi, lei avrà anche seguito tutti i problemi che ha la FIFA adesso, quindi non c'è ancora nessuna reazione diretta a queste cose. Lei sa che si è rischiato addirittura di non votare per l'elezione del nuovo presidente, c'è stata una richiesta in questo senso della federazione inglese che poi è stata respinta, quindi in questo momento ci sono qua altri problemi. Tornando proprio ai temi che sul tavolo lì a Zurigo, questa assegnazione al Qatar dei mondiali 2022 è effettivamente a rischio, visto la richiesta della federazione tedesca di cancellarla in qualche modo? Allo Stato non se ne è discusso e non credo che se ne discuta. E a Zurigo si grattano le rogne della FIFA, caro Massimo. Blatter oggi verrà rieletto dopo questo, dopo che ha fatto fuori il suo competitor. Fatto sta che non si è, che ha ritirato la sua candidatura. L'assegnazione mondiale in Qatar, anche qui, perché parliamo di Padova, Atalanta, Benevento e chi volete, però anche a quei livelli tutti andiamo dicendo, e sono parole, no? Non ci sono le manette come nel caso italiano, tutti andiamo dicendo che il mondiale in Qatar è stato acquistato a suon di petrodollari. Sì, devo dire che anche qui non è una situazione nuova, nel senso che tante assegnazioni anche di Olimpiadi sono state poi macchiate, ricordo quella di Salt Lake City del 2002, da vicende di questo genere, quindi se poi dopo le persone coinvolte riescono a dimostrarsi innocenti o comunque non ci sono situazioni, come dici tu, che portano poi a trasformare le voci in qualcosa di diverso, poi noi dobbiamo anche fermarci. Ma guarda, secondo me lì il campanello, più che le manette italiane, il suono delle manette italiane è quello degli sponsor che cominciano a dire, da gli sponsor principali, cioè quelli che ci mettono soldi veri, da, ma si può anche fare i nomi, li sanno tutti, Coca-Cola, Adidas, chi fa le macchine, chi i computer, eccetera, cominciano a dire, ma se è così, attenzione, perché quei milioni e milioni di dollari che vi diamo tutti gli anni potrebbero non esserci più, perché a quel punto potrebbe essere deteriore per la loro immagine, per discorsi molto naturali, molto ovvi. Quindi il campanello d'allarme, attenzione, tenete d'occhio la voce sponsor per quanto riguarda il mondo FIFA, secondo me. Sì, vediamo, nel senso che poi, per dire anche dal punto di vista sportivo, ci sono state situazioni ancora nel 2002, ma quando ci furono i mondiali in Corea e Giappone, che sembravano a noi che seguiamo il calcio inaccettabili, no? Anche dal punto di vista arbitrale, e quindi insomma, io su questo aspetto credo che gli sponsor poi ci penseranno, i danni d'immagine ci sono nel momento in cui veramente le voci appunto si trasformano in qualcos'altro. Finché la situazione rimane su questi piani, noi un po' ci indigniamo e poi dopo passa tutto. Dicevo anche detective, seguite la traccia dei soldi, porta sempre alla pista giusta. Sì. Dunque ci fermiamo un attimo, poi ascoltatori, veramente ultima parte di programma dedicata a loro. Oggi insomma valeva la pena di informarvi, avremo, io credo, una discreta parte dell'estate che impiegheremo per parlare insieme di queste cose. Non che siamo contenti, però ci terremo compagnia, insomma. Tanto Colantuono difende il suo giocatore Cristiano Doni e la sua squadra all'Atalanta, dicendo che è tutta una comica. A me, se è così, fa ridere pochissimo. Non credo che sia tutta una comica. Quanto poi siano coinvolte le parti, lo scopriremo vivendo. Così come scopriremo vivendo qual è la sorte dei signori che oggi invece rintracciato telefonicamente, rientrando da nessuna parte perché agli arresti domiciliari, ha detto ma non avete pietà in questa situazione, abbiate pietà, incontrerò il mio legale e poi parlerà lui. E mi sembra una dichiarazione da brividi, no? Invoca pietà, Beppe Signori. Sì, io non ho tante parole in questo senso, cioè avendolo conosciuto, ripeto, personalmente, avendo lavorato con lui, cioè, faccio fatica, no? Anche solo a immaginare questa situazione, di questa immagine qui, no? Di lui che arriva, dice queste cose, poi, per carità, nessuno di noi vive nel paese dei balocchi, quindi, no? È chiaro, però anche le perversioni del tuo vicino di posto, come fai a conoscerle? Sì. Viene da dire, no, come insomma, adesso, sai, vedo tantissimi messaggi SMS, cioè chi dice, si ricorda il tal gol, ad esempio quello con cui il Varese venne promosso, una punizione calciata al 92esimo con la barriera piazzata male. Adesso, giustamente, perché è tutto legittimo, è legittimato dagli eventi, ognuno si fa i suoi film. Walter da Roma, Guglielmo dalla provincia di Bergamo e Alessio da Alessandria. Walter, buonasera. Buonasera a lei. Volevo dirle una cosa, perché a me sembra quasi di aver scoperto l'acqua calda, ma probabilmente che mi sbaglio, che ci sia un meccanismo nella determinazione delle quote delle scommesse. E mi spiego. Io prendo a caso una partita, Ascoli-Siena, l'ultima volta che hanno giocato. secondo me può anche essere giusto che l'ultima, una delle ultime in classifica, vinca con la prima in classifica, peraltro sì, già qualificata, già promossa in Serie A. Ma com'è possibile che chi determina le quote dà, per esempio, l'X2 del Siena a 2 e la vittoria dell'Ascoli ad 1.30? Sì. Chi è implicitamente già sottointeso che quella è una partita che il Siena, nella migliore delle ipotesi, prende sotto gamba, quindi sì, non sì, si dovrebbe. No, ma è chiaro perché anche a me lascia perplesso il fatto di quotare partite a fine stagione, ma non per una questione di scommesse, ma per un'ovvia questione di motivazioni, per storie di puro calcio, se poi c'entrano anche le scommesse non lo so, però ripeto, in questo momento è facile lasciarsi andare alle suggestioni, no? Però la differenza la fanno, esiste il discrimine tra le chiacchiere, le sensazioni, le intuizioni, e i fatti sono le manette e le inchieste, e questo confine è stato superato oggi. Poi possiamo fare tutte le illazioni che vogliamo e possiamo farci tutti i film che vogliamo, come dicevo prima, no? Sì, sì, no, infatti è d'accordo. Cioè, le sensazioni sono molte, no? Anche noi stessi che guardiamo le partite della domenica diciamo, ma come si fa a... È chiaro che quella squadra vince la tal partita, è chiaro che l'Ascoli vince a Siena perché il Siena è già promosso, e perché è chiaro che il Milan non va a vincere ad Udine per non fare un dispetto all'Udinese. Sì, è chiaro, poi io l'ultima cosa che voglio fare è moralismo, esterofilia, eccetera. È chiaro, è vero, secondo me è chiaro perché noi siamo abituati e va così. Ma è chiaro fino a un certo punto, perché Manchester United all'ultima giornata ha vinto il campionato, deve preparare solo la finale di Champions, gioca all'Old Trafford contro il Blackpool che deve fare risultato per salvarsi, e Manchester vince 4-2. Quindi è chiaro fino a un certo punto, sì, cioè però siamo abituati, per noi è così, però non è detto che debba per forza continuare a essere così. Magari scoppia questa bomba, e magari qualcuno, anche mica solo perché diventa santo all'improvviso, però sta un po' più attento e fa le cose in maniera più professionale, o no? Sai, Massimo, adesso siamo noi stessi a fare mille discorsi, pubblici o meno, no? La squadra che va a giocare, io prendo Udinese-Milan, che è una partita che nulla c'entra, no? Però ti dici, il Milan non va a vincere a Udine per non rompere le palle all'Udinese e lasciare andare in Champions League, poi l'anno prossimo il Milan ha bisogno di un punto, l'Udinese glielo dà. Sono questi i discorsi che facciamo, sì, no? Però esempio, li facevamo anche sul campionato europeo quando l'Olanda giocava contro la Romania e noi eravamo in mezzo perché dovevamo affrontare la Francia, e dicevamo questo, poi magari il prossimo anno uno gioca nell'Ajax e uno della Romania va a giocare nell'Ajax, l'Olanda ha vinto 3-0 contro la Romania. Sì. Cioè, quindi è un discorso che è vero, noi facciamo questi discorsi in maniera così ormai abitudinaria, però è un discorso che purtroppo è molto specifico della realtà italiana, questo dobbiamo salvo dobbiamo poi ammetterlo. Sorprendersi quando ci sono Danimarca e Svezia che pareggiano 2-2. Quello è un altro discorso per me, perché lì il pareggio fa comodo a entrambe, sì. In quel caso lì non c'è una che non gioca per favorire l'altra, lì giocano entrambe per un obiettivo comune diverso, secondo me. Alessio da Alessandria, buonasera. Ecco, sì, buonasera, salve. Eccoci, salve. Avrei una domanda. Prego. Secondo voi, in questo caso, verrà poi richiesta la responsabilità oggettiva delle società, se poi verrà verificato tutto questo? Secondo me è molto difficile dirlo oggi. Io sono molto curioso abbiamo sentito prima cosa ha detto il GIP di Cremona, Salvini, abbiamo sentito che ha detto che ci sono ancora cose che dobbiamo scoprire, ad esempio ci sono anche i nomi dei dirigenti, ho capito male? No, questo sono diceva, nomi dei dirigenti, non fa questi nomi. Non è chiaro dove, come, quando, perché, però che sono coinvolti, allora lì si sposta ad un altro livello. A me questa vicenda fa tornare in mente, per lontana associazione di immagini, il famoso calciomercato di Trinca e Cruciani dell'80, che fu il primo vero terremoto del calcio italiano. Cruciani, che non era Giuseppe. Però. Non è Giuseppe, neanche suo parente. Neanche suo parente. Allora era un altro mondo, erano scommesse clandestine, in questo caso sì, non si parla ovviamente di scommesse clandestine. Però questo coinvolgimento, ma anche in questi sottili e immaginari accordi tra giocatori, no? Che poi possono funzionare oppure no. Eh sì, perché bisogna che siano d'accordo tutti per funzionare. Per fortuna non sono d'accordo tutti, no? Come abbiamo visto, e devono mettere i sonniferi sì. Nelle bevande, quindi. Sì. Mi sembrano comunque quasi vicende un po' ad Antani, la storia dei sonniferi nelle bevande è una cosa da... Era dei tempi del mondiale con Maradona, no? Ricordi? Il Rohypnol in Brasile-Argentina. Tommaso da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, due piccole riflessioni. La prima è che mi sembra scontato che dove girano tanti soldi, comunque sia ci sia anche persone che cerchino di approfittarne, quindi purtroppo non solo nell'ambito calcistico ma un po' in tutti gli ambiti sia così. La seconda riflessione mi sembra che oggi stiamo facendo gli stessi discorsi colpevolisti che si facevano quando nel 2006 scoppiò un'indagine che poi in realtà si è rivelata ben diversa alla luce poi di tutte le trascrizioni che mancavano, le intercettazioni mancanti e tutto. Quindi forse bisognerebbe essere un po' più cauti con i giudizi oggi, credo. Ma guardi, i giudizi più che altro li fa il GIP, no? Mi sembra che le uniche parole che contano oggi, e mi sembrano parole di un certo peso e di un certo rilievo, sono quelle che arrivano dal giudice per le indagini preliminari di Cremona, quindi non sono giudizi, noi ci limitiamo ad ascoltare quelle parole e ad avere una certa preoccupazione, perché sono parole, se vogliamo, anche insolitamente pesanti in questa fase dell'indagine. Sì, poi la sensazione che ho è questa qui. Quello che è emerso nel 2006 non è che sia finito nel nulla, perché ieri sono arrivate richieste dei PM, c'è chi ha deciso per il rito abbreviato a livello penale, ci sono società che hanno pagato, si può discutere che qualcun altro fosse coinvolto rispetto alle società coinvolte, ma insomma io tralasciamo la parte lì perché era evidente, no? Sennò apriamo il filone che lega signori doni questo presunto calcio scommesse a Calciopoli ti saluto estate. Sì. C'è chi chiede anche il nome del sonnifero l'orme Zeppamma, nome complicato. Problemi di insonnia, qualcuno però, che ha problemi di insonnia. Però nelle carte c'è anche il nome del sonnifero. Un sonnifero che rischia di non farci addormentare per diverse notti. Massimo, ci sentiamo nel corso dell'estate, sarai anche tu protagonista di questi microfoni. Aggiorniamo la seduta. Ah, vi ricordo una cosa importante. Domani, salve esigenze di cronaca che sono quelle in divenire, saremo qui in diretta il 2 giugno con un ospite specialissimo che non riguarda il calcio ma il ciclismo, perché sarà con noi per parlare con voi Ivan Basso, domani dalle 14 alle 15 in diretta in A Tempo di Sport. Io ringrazio Massimo Callegari, ringrazio Mauro De Angeli in regia, Franco Piantaneda in redazione, ci sentiamo domani alle 2.